heard the Twins from 1983 and Face to Face, Heart to Heart su l'etichetta Discotto. E eccoci nel 2001 con il bel remix ai Free Project. That's Free Project, il remix versione 2001, e ringraziamo al Domi che ha cantato su questo remix. Prima di quello abbiamo sentito The Twins con la loro versione originale, anzi dal 1983. E che bello sentire questo remix. Complimenti come sempre al Free Project e Giancarlo Cavallo DJ. Allora, prima di chiudere quest'ora, volevo salutare a Marco, che volevo dire a Mariano che l'amo, ecco, e pure a Skipper che mi ha scritto. Adesso sono contento di risentirti in onda, e come sempre stai andando alla grande. You are the best, ti voglio il mondo di bene. Skipper, thank you very much, che cose carine che dici. Oh ragazzi, il tempo è arrivato da salutare a Giancarlo Cavallo DJ, però arriverà Alessandro Di Laurentiis appena dopo l'orologio. Ladies and gentlemen, the clock. Le 23. Sempre con voi questo sabato sera, broadcasting live from the Ice Park sui spalti di Maschio Angino. Ci sono le persone qua che stanno facendo la pattinaggio e sono proprio bravi questo sabato sera. Ragazzi, avevo sentito già due DJ fortissimo, anzi tre, perché c'erano due nel primo ora. Tre DJ fortissimo, e poi adesso arriva Alessandro Di Laurentiis per concludere con il terzo ora, tutto dedicato a lui e il suo grande mix. Iniziamo con il House Club. My name, come sapete, is Fergal Cal, e c'è Gino Banderas che sta in studio, e abbiamo Gianfranco qua all'esterno aiutandoci a divertire con questa musica questo sabato sera. Vai Alessandro Di Laurentiis with House Club. And with a little scare. Allora, il nostro GSM box è il 0348 24 38 888, e mi ha scritto Roberta e ha chiesto a me di dedicarle una canzone. Allora Roberta, questo Benjamin Diamond's Little Scare era proprio per te. House Club, DJ Di Laurentiis, Alessandro. Facciamo una piccola pausa e torniamo tra pochissimo. Fused with Saving Mary con House Club, il nostro DJ Alessandro Di Laurentiis. Ok, Saving Mary, Mary come sapete vuol dire Maria, e ci è appena scritto proprio Maria, ha detto: mi sono appena lasciato col mio boy e vi chiedevo perché alcuni ragazzi sono troppo siete unici, un mega kiss a Marco di San Giuseppe, bacioni, grazie Maria. E non so perché certe persone sono così tanto stress. Capita, se fossimo tutti simpatici e dolci eccetera, non sarebbe così interessante questo mondo, ti trovi? Ho lanciato il messaggio aiutatemi, che vuol dire la parola effimero, ma nessuno me l'ha ancora risposto. Il nostro GSM box 0348 24 38 888. La parola è effimero, e per sentirlo nel suo contesto giusto, nel suo ambiente naturale, ascoltate questi appuntamenti. Radio Tour in Tour. Radio Tour in Tour. In tour questa sera l'ex Estivi e Martucci a Napoli, effimero notturno fino all'alba, musica commerciale, speciale striptease, happy hour, bevi due paghi uno, ed ingresso e consumazione omaggio per tutte le ragazze. In tour con Fabio Brescia ogni martedì sera al Dry Dock via Cinzia a Napoli, 100% black music e two-step, art director Antonio Gerardi. Radio Tour in Tour. are you on the winds? I know you, I love you. This is House Club, you're listening to Alessandro Di Laurentiis, DJ. Allora, il nostro GSM Box 0348 24 38 888. Voglio ringraziare ad Agnello, perché Agnello mi ha scritto a proposito di effimero, non riesco più a pronunciarlo nemmeno. Dice che è ciò che dura un solo giorno, ha un breve durato. E poi dice di cuore, complimenti per le musiche che mi hai fatto ascoltare. Oh, grazie per questo, Agnello. Tu sei un simpaticone che ci scrive queste belle cose. E poi pure sei, puoi dire che sei un insegnante di italiano, che stasera ho imparato un nuovo termine da te. Comunque ragazzi, un altro 15 minuti di bella musica. Arriva il two step, la speciality di Alessandro Di Laurentiis DJ. Però prima facciamo una piccola pausa pubblicitaria. SPOT sempre a quest'ora che concludiamo la trasmissione con il Made in England, cioè il two step che Alessandro Di Laurentiis ci propone e sta proponendo da più di un anno ormai. E grande Antonio Di Laurentiis, Alessandro Di Laurentiis scusa, e voi lo potete sentire stasera al Slide di Via Orazio. Ragazzi, è tempo arrivato di concludere, di chiudere, andare via. Siamo all'Ice Park sui spalti di Maschio Angino e ce ne andiamo. Grazie a voi che ci avete ascoltato, grazie a Gino in studio, grazie a Geoffrey G che sta qua esterno con noi, e grazie a tutti i DJ e gli ascoltatori tutti quanti. Ragazzi, vi saluto, a domani alle ore 17, alla prossima. Ladies and gentlemen, the clock. E mezzanotte. Tribù.